Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Oggi parliamo di bilancio, il bilancio 2014-2020, che è stato al centro di un dibattito serrato. Sentiamo l'approfondimento curato da Sergio Nava. Alla fine l'accordo è arrivato. Dopo 5 mesi di negoziati serrati, avviati con un primo vertice europeo a febbraio, l'accordo comunitario sul prossimo budget settennale è stato raggiunto giusto in tempo per arrivare senza troppe ansie al via dell'ultimo summit di giugno, che ha potuto così concentrarsi quasi completamente sulla lotta alla disoccupazione giovanile. Sentiamo allora subito ai nostri microfoni l'eurodeputato Giovanni Lavia, capo della delegazione italiana del PPE e relatore proprio sul bilancio, che commenta soddisfatto l'intesa raggiunta a Bruxelles a fine giugno nel corso del trilogo Commissione Europarlamento Consiglio Europeo. Sostanzialmente la battaglia del Parlamento è stata una battaglia positiva. Il fatto di aver detto no questa settimana a un accordo a ribasso che prevedeva poca flessibilità ci ha portato a ottenere qualcosa di più, e credo che abbiamo ottenuto più Europa, perché abbiamo ottenuto che le risorse destinate all'Europa, agli Stati membri, possano essere utilizzate pienamente, mentre invece con poca flessibilità le avremmo perse il primo, il secondo e il terzo anno. Invece con questo nuovo sistema di flessibilità nei primi 3 anni dovremmo avere flessibilità piena, cioè le risorse non utilizzate si potranno spostare all'anno successivo integralmente, mentre negli ultimi 3 anni avremo un tetto di spesa trasferibile. Questo significa che avremo dei limiti, ma in ogni caso è un grosso passo in avanti. Nei fatti, quello che accadeva prima, se non si spendevano i soldi tornavano indietro, adesso c'è la possibilità di poter utilizzare pienamente questi 960 miliardi. Certo, si tratta però di 960 miliardi di impegni e solamente 908 di pagamenti. Questo è valido soprattutto per i pagamenti, perché le risorse che non venivano pagate in un anno, perché gli Stati membri sono più lenti nella implementazione delle politiche e talvolta chiedono di trasferire soldi da un anno all'altro, evidentemente con questo nuovo sistema li possiamo trasporre e li potremo utilizzare integralmente. Il bilancio europeo 2014-2020, come spiegava poco fa Lavia, potrà contare su un ammontare di 960 miliardi in impegni, ma in solo poco più di 900 miliardi, 908 per la precisione, in pagamenti effettivi, soldi cioè realmente erogati dall'Europa. Sentiamo allora come il commissario europeo al mercato interno, Michel Barnier, a febbraio di quest'anno, nel pieno della guerra negoziale sul budget, spiegava in termini concreti a cosa serve il bilancio europeo e lanciava già allora l'allarme su cosa avrebbero significato i tagli, poi effettivamente avvenuti, in termini di meno Europa. Questo bilancio, lo ricordiamo, è il primo nella storia comunitaria in cui le risorse, causa crisi, sono state ridimensionate rispetto all'immediato passato. Sentiamo Barnier. De quoi parle-t-on quand on parle du budget européen? Di cosa parliamo quando parliamo di bilancio europeo? Parliamo di un bilancio che rappresenta appena l'1% del PIL europeo e il 95% è usato per investimenti nelle regioni europee, ad esempio nel sud dell'Italia, destinato questo bilancio alla politica agricola, è destinato alla ricerca, alla formazione attraverso il Fondo Sociale Europeo e ai primi strumenti a nostra disposizione per la politica estera. Molti di questi tagli riguarderanno, attraverso i programmi che ho appena ricordato, riguarderanno proprio i cittadini e riguarderanno proprio le regioni. Ora, io spero che alla fine ci sarà abbastanza coraggio politico per trovare un compromesso accettabile. Potrei riprendere quello che diceva il Presidente della Repubblica francese l'altro giorno a Strasburgo, che diceva sì alle economie, ai tagli, ma non che vadano a detrimento, a sfavore dell'economia. Cioè che non mettono a repentaglio la crescita e i bisogni dei cittadini. Grazie a Sergio Nava, con questo è tutto per oggi, torniamo domani naturalmente con Europa 24. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.